vai di sopra quel bastardo e gli schiacci contro le alte canci insieme e così gli blocchiamo il computer, vai!